saprete. Praticamente così è poco più di metà, E così invece è al massimo, capito? Così al massimo e così è poco più di metà. Capo della loro. Diciamo, lo mette al massimo, aumenta parecchio, eh. Io l'ho fatto a chi vive in vita, no, a chi vive rimane qua. Ah, positivo, positivo. Positivo accento. Aspetta. Sì, buono, buono. Buona regolazione, buon tutto. Beh, Renato. Renato come di soffro, beve. Per quello che era prima, per carità, lui ha parola già Renato a Puglia. Sto giudito come c'è una cagata. C'è una cosa non so fare, lascio fare chi la sa fare. Siccome mi piace a me mettere a posto queste cose. Perciò è più che io. Adesso la cosa bisogna fare è comprare un come si chiama? Un attacco a sì ed eliminare questo cacchio di allattatore. Mettiamo il via. L'attacco lo tieni da qua e qua si mette l'attacco diretto al barracchino, capito mia? Io non si può mettere con l'attacco al sensore originale. Certo che si può mettere. È quello che voglio mettere io. Direttamente all'M500. Capito? Voglio mettere, eliminare questo adattatore e mettere l'attacco su. Però l'adattatore non si tocca. L'adattatore si lascia così com'è. Si compra un altro spinotto a 6 punte e si mette nuovo al posto di quello qua. Sì. Ho capito. Ma ci sono anche quegli svirutti che si avvittano. Non che ce l'avvittino, ma quelli che si avvittano. Cioè che quando sono i fili puoi avvicinare la penetratura e si avvitta. Capito via cosa voglio dirti? Sì, ho capito. E lì così non stai a mettere la vittina. Li prendi una volta che si saltano, si fanno le connessioni. Si avvitta direttamente, c'è la filettatura, capito? Ho capito. No, ma non c'è problema. Bisogna farglielo. Eliminare questo adattatore, perché non va bene così. Troppa roba a mettere qui. L'adattatore va bene, si tiene perché è comodo per fare le prove. Però qua bisogna mettere uno spinotto a 6 punte, come Dio comanda, e terminarlo bene. Già tutto pulito, verniciato, a posto, già l'hai visto. Pulsante dietro, i cursori sono tutti nuovi, tutto ok. Tutto quello che c'è da fare è stato fatto. L'unica cosa è da cambiare il connettore da 4 a 6. Beh, quello è l'ideale, perché lo stai via, ce l'hai direttamente diretto, lo stai in questo adattatore lì, in mezzo ai piedi, gli attacchi direttamente ed è tutto l'ordine. K. Si conferma. Va bene. Abbiamo perso Mauro, non so che fine ha fatto. Mauro? Non ho mai perso. Ho provato a attaccare il grande, quello che aveva il terrificio in casa, dai. Beh, non ci siete. E comunque no, meglio mettere l'antenna su o tutta un'altra cosa. Con questa ci si sente ma non più di tanto. Perché? Non ti preoccupare, già la sistemiamo anche quello, Mauro. E l'hai muovito di me. Quello sì. Ascolta, io vi lascio, che così chiudo tutto, rientro in casa e così almeno, dopo ceno e a letto. Via Mauro, vai, ci sentiamo domani allora, ciao, buonanotte. Ci sentiamo domani, avanti a tutti. Positivo, ciao Mauro, dai. Buonanotte, ci sentiamo domani. Capparoccia. Ascolta, ci sentiamo a fine mattinata, Claudio. Ci sentiamo già a fine mattinata, così ti dico come sono messo Mauro, ok? Ok, va bene, a domani, ciao. Buon divertimento, buon proseguimento. Ciao Mauro, cioè, in ogni caso tu l'antenna compra, la puoi fregare, non c'è problema come sono messo io, tu l'antenna ritirala e prendi tutto. Capo, io domani mattina vado e la compro e dopo vediamo, va. Bene, d'accordo, ci aggiorniamo domani Mauro. dietro, fra 5 minuti scarsi, quando vai via tu, anche io vado a mangiare. Si sentono rumori di casa, rimbombi, contro rimbombi, bombe a mano, scarpe che vanno, che vengono, sì. No, ma la verità non sento niente. Non sento niente? Questa voce la senti? Sì, la voce sì, dovrebbe essere la 250, quella si sente. No, no, è il televisore. È la TV, è la TV. Ed è abbastanza lontano da qua, quindi anche come preamplificazione va più che bene. Si conferma, sì, quello è vero, come preamplificazione va più che ultima. K9 ce l'abbiamo a parole. No, no, buona. Aspetta, no, no, ieri ha cambiato, come era prima, per carità di Dio. C'erano regolazioni che non andavano bene, però se ci sono degli accorgimenti da fare, io posso farlo solo, se ho la radio qua, perché metto le cuffie, metto il parlascolto della colonnina, insomma devo sentire io, solo così riesco a fare le regolazioni. Diversamente non si può fare così in lontananza, capito? Comunque adesso lo tengo sotto controllo e poi vediamo. Ma Bippi non ne ha questa radio? Non saprei dirtelo, proprio mi sa dei Bippi, non so cosa dire, se ne abbia, se non ne abbia, boh. Insomma ci do luce a vedere, mi sembra che ce l'abbia andata. Provo a vedere, ma non sono sicuro, non sono sicuro e non saprei la verità, se Bippi aveva o non ne aveva, ma penso, penso che non ne abbia, poi non so se ne ha. Allora, così, tipo L, tipo H, la potenza è a posto. M, FM, NB, NB, tipo G, NB, non so, NB, HI, manda lì, tira lì, tipo G. Vedi che lo dico doppio. Ah, spuno tipo doppio qua, questo è. Tati, tati. Sarizia. Sarizia, la telegrafia. La telegrafia. Questa è una A, guarda. Questa è una A. Questa è la B, questa è la G, altro di burro. Burro, già mi assai, io mi dai su burro. Se non tu riesci, se riesci a farci promosso, se no è così a far. Se uno studia con la tiracca di Camboni, non uscirà mai promosso, capito? K, sì, sì, c'è il tasto, lo chiamo Roger Bippi, ma io mi pare un tasto c'è un doppio, metto uno. Va bene così. No, no, questo non è A, è MG, non so cosa cazzo vuol dire qua, è MG, cosa vuol dire? Cosa c'è la radio? C'hai un pulsante, tu c'è, è MG, HI Log, AMFM, scanner, DV, NB. Bisogna dirlo al signore Blaghe, cari. E tu posso sicuramente. Bisogna dire al signore Blaghe, non funziona, non è più Rubipi. E cambio qua vedo, mi ci chiudo, pure un microfono a faccia. So che sto lavorando a proposito. Sto piazzando il ponte, no? Ascoltami, stai sbagliando, ascoltami bene. E ci sono due antenne, una attaccata all'altra, 20 cm una all'altra, però queste antenne, no? Sono, no, guarda, non più di 40 cm l'una, però sono VHF. Sì, ci abitava, l'animatore, lo dico di persona, chiede. Veramente non ci abita lui, ci abita la ragazza, e quindi ha messo due antenne per quando va lì, giusto per farsi sentire, capito? Niente. Ciao, pronto? Sì, ciao, arrivederci, ciao. Ciao, ti sono tratta. Ma gli hai 5 minuti, ne sono già passati un quarto d'ora. Va bene, là. Facciamo un po' di carica e poi ce la riascoltiamo. Sì, è acceso il quanto, non c'è problema, spengo solo il mic, se non si consuma la batteria, la radio è accesa qua. Chi fa prima chiama, capa, tanti saluti a cena con i colleghi. Va bene, buona carica, Claudio. Cappa, cappa. Ascolta il marito, che dove più sono tutti. Ah, hai detto bene. Il codice Morse, così chiamato a suo tempo, così sempre chiamato, no? Era stato proprio fatto per far sì che i sordomuti scrivessero il codice Q, quindi andando con il CW, quindi con la tastiera di è una pulsantiera, un bip così chiamato, dicio. Capito? Va bene, poi te lo spiego, che se no mi si raffredda il coso, come si chiama, non ho mai giocato a due maniere. Va bene, anche io mangio un po' di minestrone, sto rientrando. Mi sa che ci ho fatto, non lo so. Allora devo vedermi dopo. Vabbè, invece di salutare lui, di salutare lui viene. Va bene, dai, buona carica così. Ciao, non mangiamo più, a dopo, ciao. Sì, a dopo, dai, ciao. Marchetto! Dica! Ehi! Buonasera. Sì, Claudio. Ehi, stavo finendo di fare delle regolazioni. Ah, ascolta Claudio, io ci ho bisogno di trovare a casa un nuovo contratto, un amplificatore in antenna che va alimentato a corrente, no? Che sale da 0 a 25 dB. Se io lo monto in casa, che risultati ciò? Ci avrai da 0 a 25 dB di preamplificazione. Quanti ohm è? Non te lo so dire, non sai quanti ohm ha. Controlla, per vedere se si può mettere anche lì, ma credo che non siano problemi. Se dunque, sì, potrebbe, va bene anche per il cambio domenica. Va bene anche per il cambio. Prendi, guarda se l'alimentazione però è a 12. O è a 24, perché se no, quello lì è a 12, quindi mentre l'adattatore è 12-24. È a 12, però lì c'è scritto, c'è scritto amplificatore, modulazione, c'è scritto, e poi c'è il pomellino, che sale da 0 a 25 dB, ma mi aiuta anche in uscita. Vedrai in ricezione, lo vedi? Sono da 0 a 25 dB in ricezione, preamplificatore d'antenna. Vuol dire amplifica il segnale d'antenna in ricezione, non in trasmissione. Che appaccio! Perché mi ricordo l'avevo montato una volta, perché questo qui è un pochettino sordo, e ce l'avevo. Poi non me l'avevo più trovato, e non l'ho rimesso nella scatola. Vabbè, comunque già si può mettere, non c'è problema. si può mettere alla grande, va benissimo, mettilo alla, in mezzo e le fai l'altro spezzone, uno spezzone al baracchino, uno spezzone al pezzetto dell'antenne. Beh, meglio qua adesso la regolazione che ho fatto. Vediamo come funziona, perché non so dove lo mettere, cosa fa. Io qua ho tutta una base, tutta una stanza mia, quindi magari bomba di più, c'è più effetto presenza, non lo so. Da lui non lo so come, io non sono mai andato anche da sua, capito? Quindi non so come stia trasmettendo. Qua magari la stanza è grande, rimbomba e lavora così come lo stai sentendo tutto. Sono rifatto completamente tutta nuovo, capito? Luigi mi ha fatto tutte l'adattatore, le connessioni, quella roba lì. E poi io mi ho sistemato tutta la parte interna e esterna. Diverse giornate per metterlo a posto sul microfono, perché era veramente in condizioni pietose, pieno di fili, di tutto legati a scorci o casini. Poi stavano usando l'alimentazione a 12 volt, non a 9, quindi hanno bruciato tutta la pista della serie amplificata, l'ho tutta rifatta. Ho messo la serie nuova della batteria, l'attacco CV originale, quindi adesso dovrebbe andare bene. Bucca. Te l'ho visto segnare, io già me ne accorgo quando stai per entrare in bucca. C'erano delle regolazioni da fare esternamente e internamente, domenica. Adesso gliel'ho fatta. Vediamo un po', poi lo proverà lui a casa sua e vediamo come va. Il microfono tutto sistemato. Adesso funziona, dove prima non funzionava neanche, non accendeva, era tutto bruciato. E l'hanno tutto manomesso. Hanno provato a sistemarlo, non lo so. Io ho tutto rifatto all'interno, Luigi mi ha preparato tutte le connessioni, che ci aveva un adattatore, capito? Quindi ha preparato l'adattatore, ha fatto tutte le connessioni. Ha attaccato il coso dietro, il pomello che ci mancava, poi ho fatto tutta la parte esterna e le piste interne che erano tutte bruciate. E ma frugare umano, domenica, però fruga se sai frugare. Se non sai frugare, non è che frughi per fare danno, perché era completamente tutto masticato all'interno. Quindi mi ho fatto tutte le cose che dovevo fare, poi l'ho passato a Luigi per preparare l'adattatore, è stato fatto l'adattatore per poterlo usare con altre radio, e poi lo spinotto nuovo ho messo Luigi. Poi abbiamo dato una bruciatina, una cosa, ma senza togliere le scritte, le scritte ci sono tutte, il piantone è uscito bellissimo, lucido in alluminio, ma era la lampada proprio che microfono, però adesso almeno funziona, la soddisfazione di sentirlo funzionare. Si è telefonato a Falchettos che stava uscendo bene adesso, vabbè, teniamolo così e poi si vedrà, dai, non c'è problema. Un alimentatore piccolo c'è, no, io ho 100 ampere, ho due alimentatori della Kimball da 50 ampere, quindi ho questo attaccato così volante, però ho fatto un... esternamente ho tolto due cavetti, con le bananine proprio per fare queste prove così veloci. Infatti la radio l'ho messa sopra uno dei miei e va bene così. Comunque sto ecco che mi ascolti, va bene, no? Se vedete un parlare qualcosa di seguito. fatto di tu. Uia, uia. Comunque, va bene, no? Questo è superstrada, superstrada. Ole wo, superstrada. Tullio, attento Tullio, mi ascolti, Tullio. Non sto dicendo a te Tullio, caro, sto dicendo al cane di Antonio. Avanti sul canale 10, chi è? Avanti il break sul canale 10. Ho capito chi sei. Limoncino? Bomboncino? Atto di Aldo. Atto, io non ci compreso una mamma. Bomboncino, lo furgoncino, leoncino, limoncino, bastoncino. Leoncino. Buonasera Leoncino, ben ascoltato. Piccolo, piccolo, da dove stai modulando Leoncino? Da dove? Da Sassari. E da Sassari si usa il piccolino. Ti ascolto, non c'è un problema. capito. Lì bisogna mettere qualcosa di più grosso, almeno ti fai ascoltare anche tu. Mauro, domani mettiamo l'antenna, così entra anche Mauro, lì da di punti, e iniziamo a organizzare il canale per la grande durata invernale, capito Giuseppe? Quindi qualche base magnetica, qualcosa bisogna mettere lì. Se appoggiate il cazzo lungo da qualche parte bisogna mettere qualcosa lì che ti fai sentire un po' di più. Vediamo di fare qualcosa anche per te, mettere qualcosa per farti sentire un po' di più, capito? Aspetta un attimo, vediamo se sento Domenico. Attenzione, Domenico Tardanetto. Di Buddha non lo sento più, Domenico, tu lo senti Anto, che c'hai la radio magari più selettiva, questa è un po' più sorda, rimane, e poi va un bel QRM, cazzo il QRM che non è che la radio, il covaracchino non radio. Aiaia, non lo so, ha detto Domenico Tardanetto, ha detto che al bivio di Ardarai, hai copiato Ocla, Claudio. Cos'è detto al bivio di Ardara? Domenico è al bivio di Ardara. Ah, al bivio di Ardara, no, questo baracchino fa un po' di QRM. Se vero non si fa attaccare. Un bel QRM fa, parecchio rispetto agli altri. Nessuno l'aveva mai attaccato, l'ha attaccato giù. In via Pasquale poco QRM, ma qua ci prende un sacco di QRM. Parecchio mio. Avanti. Ma un saluto Torre, ciao Barriero, ciao. Poi Torre, buonasera, buona tarda, sì, è Falchetto. Qua ci sono due uccidi rapaci, uno dell'alta montagna, quindi alta valle, bassa valle. Vai Falchetto. Ciao Torre, ben sentito. Ben sentito in compagnia di Claudio. Di Claudio Spalviero e di Domenico e di Mauro, avanti per chi vuoi, con la buonasera. Sarebbe che ho ascoltato Spalviero anche, poi non so se c'è sotto gli altri, Mauro, avanti Mauro. Mauro e Giuseppe, Giuseppe Leoncino. Ciao Tore, buonasera, ben ascoltato. Mi dice orientativamente così, vuoto per pieno, com'è questa modulazione? Va bene, è leggero ecco, va bene, non è molto applicata. Va bene però, leggero ecco, tranquilla, serena. Sì, questo è un M500 da tavolo che abbiamo messo a posto e lo stiamo facendo andare fino a quando non mi si chiude a pittorra, perché ogni tanto fa così, guarda. Sì, non so cosa c'è. Ho contato e parla, fa bip. Ma sì, ogni tanto si accende la luce e parte da sotto. Ma sai perché Antonio ce l'aveva in macchina, si è parcheggiato lì a Proaghe e allora non ha funzionato più il microfono, vero? Tutto Domenico? Non ho sentito più il BP, ho sentito il BP. facciamo di QRM. Ciao Domenico, un abbraccio grande, buon rientro, buon tutto, e ci sentiamo alle prossime. Grazie del controllo di tutto. Ok, alle prossime. Vai Giuseppe, Giuseppe, vai, Giuseppe, vai. Vai Giuseppe, vai. Giuseppe. Lui ci ha fatto un microfono per questo. Io caro che ci picciate, vai Giuseppe, vai Giuseppe, fai le palla. Ci sono rimasto tutti di attaccare. Lei ci ha detto, dai giudizio è passato la gente col cuore. Quindi quel microfono qui ce l'aveva uscita, così di trovare. No, va bene, aspetta, sta chiamando Giuseppe, dimmi Giuseppe. Ho capito, sì, sta parlando dai direttore, ma tu non lo senti. No, anzi, fa bene se ne metti un foglio della mela sopra. Capito? Lo metto il foglio della mira, la base magnetica sopra, la più massa. E prova a vedere. Oh, facciamo qui di Ramona, di Gigi, la cappotta di Rufurgoni e le bombe della massa. Di la mola, metà della cappotta del furgone. Sì, Tore, questo è il microfono dell'ultimo comizio che ha fatto Sillaco. Fortunatamente quando è caduto è riuscito a tenerlo in mano, perché sennò gli entrava in bocca e non funzionava più. Questa è l'allarme della macchina mia. Quel cazzo di gatti, guarda, non si scende adesso. Già si stacca da solo. Cazzo, ci sono i gatti che passano sotto la mia macchina. E ogni volta a parte, ragazzi. Ma io faccio una vagliata. Che te ce l'hai, tu che ci hai fatto la smacqua? Ehi, ehi, ne avevo sentita. Pi, pi, pi, pi, pi. Fare cazzo per gli orita, come te lo gira a casa. Mi, mi, mi. Si fa l'allarme, è l'allarme della smacqua. È un allarme particolare, ma è originale, è collegato al braccio, cazzo, ma quando parte c'ho il posteggio sotto proprio la finestra, siccome è un piazzale grande all'interno del complesso, ma cazzo di rotti e poco rimbomba, che lì mi c'è il posteggio. Facendo qualcosa dovreste rifare un po' meglio. monitori, l'ha detto. Solo devo correggere. Se le legge i microfoni ci sono scritti. Ah, ehi, questo mi aiuta, dai. Vai, tu. Sono molto importanti. quando in una radio c'è un buon microfono stai per certo che tutto ti viene a pennello, non devi fare molti sforzi per correggere, fare nessun tipo di emissione, soprattutto con quelle radio di quella stessa ritmica, perché gli HF vanno usati microfoni professionali, quindi se hai un Kenwood c'è un buon abbinamento che avevo fatto. Kenwood con Icom sposano molto bene, le radio Kenwood con i microfoni Icom sposano molto bene, mentre i microfoni della Kenwood con le radio Icom non sposano molto bene, rimangono cupe, rimangono un po' gracchianti, non sono mai riuscito a fare la regolazione perfetta, nonostante io mi appento moltissimo, ma non c'è stato niente da fare. Invece per dire il 140, 440, anche il 430, 180, tutte le categorie Kenwood, di quelle di militata inferiore, diciamo, con l'SM20 va benissimo, io l'adattatore a volte cambio per farlo andare e va perfettamente bene. Invece le merce 60, per dire, su una radio Icom non spinge, rimane un po' così. Ho fatto delle prove anni fa, ma non ho avuto grandi risultati. Come io metto questo M500 o l'M400 su un Kenwood, capito? Certo che la modulazione, la spinta per la lama, non è quello per la lama, sarebbe un ottimo microfono, si adegua un po' a tutte le radio, però se permetti io preferisco più con un adattatore o anche facendo le connessioni, se non ho altri microfoni, inserire un tanto più 3 su un Kenwood, che è uno spettacolo sentirla con la modulazione. Ma perché? Perché intanto il Tandem più 3 ha una cappa sulla ceramica e quindi ti consente di avere questi medio-alti molto acuti. In più, stai lavorando con una radio che ha un microprocessore all'interno, quindi un compressore che spinge e automaticamente la modulazione da 5 diventa 10. Quindi puoi darle qualsiasi tipo di microfonia, l'importante è che lavori con una capsula ceramica, perché se è dinamica vai a trappare subito, invece con la ceramica tende un po' ad avere gli acuti, quindi a dare meno spinta, e quindi la tonalità rimane medio-bassa, e perciò lavora bene. Però preferisco sempre un Tandem più 3 più che inserire un Sadelta su un HF, questo è il mio parere, non è che voglia dire bisogna fare per forza così, questo è il mio parere perché l'ho già fatto, ho avuto un'esperienza dove ho inserito un Tandem più 3 così provvisorio a un 140 e la modulazione veniva fuori, non dico che budiana, ma comunque con una bella potenza, una bella chiarezza. Giuseppe, Mauro domani mettiamo l'antenna, gli altri siamo più o meno tutti già a posto. E quindi cerchiamo, anche io mi sto cercando di rispolverare un po' anche i baracchini per farli andare. E così insomma diamo un colpo all'incudine, una martella, non c'è problema. Vediamo furgoncino. Giuseppe, ancora abbasciata, dici? Oppure per i baracchini no? No, Giuseppe. Per i baracchini no. O qualcosa, ma è solo HF, capito? Ma tu non devi mai usare un microfono, tu stai uscendo benissimo di radio. Tu devi mettere a posto l'antenna. Io non sento niente. Ma Giuseppe, sei abbassato di nuovo. All'ombra sì, mettiti al sole. All'ombra hai detto che sì, zona d'ombra, mettiti in zona sole. E io, quando vuoi, ti ho detto non c'è problema. Va bene, per me va bene Giuseppe, se ti sento. Ti sento benissimo di radio, no, non ho problemi. L'unico problema che ho è il segnale che passa. Sei in mezzo al QRM, quindi bisognerebbe cercare di far aumentare un po' il segnale, poi per me vai bene. Vai a tu. No, io lo sento basso, basso, mezzo al QRM. Non riesco neanche a capire cosa sta dicendo, riguardo un po'. È troppo basso. Basso, basso. Bisogna cercare di portare un po' più sul segnale, altrimenti è un casino. Eh sì, in effetti così. Capparogero. Avanti, Tore. C'è cosa migliore? Guarda, abbiamo fatto l'abbinamento con Pinangelo qualche anno fa, ma poi lui lo usa sempre, adesso non so se lo sta usando, praticamente uno di quei microfoni per cantare, normale, e abbiamo fatto la base, e la base no, ce l'aveva già, di un altro microfono che però era rotto. Abbiamo provato l'alimentazione, il circuito di praticazione era buono, adesso è benissimo. Non c'è una radio molto molto forte, però è molto bella, molto chiara, molto presente. Quello ce l'avevo anch'io, me l'ho regalato a Franco California, non so che fine ne abbia fatto fare, ma era uno spettacolo, era uno spettacolo, era tipo Shure, però era della Sommercamp, gliel'ho dato perché gli ho dato anche la radio, un Sommercamp Digit 101. Poi non so cosa ne abbia fatto perché non ci siamo più visti e non so cosa ne abbia fatto ancora dopo. Un microfono così bello, tutto in acciaio ossidato, veramente bello. Più roba c'hai e più problemi poi ti crea. Avanti a tutto. Positivo. Ebbene, in effetti così più roba si ha e più problemi si creano. È vero, è vero. Cappa di Roger. Viene sempre lasciata da parte, che sono cose che rimangono, fanno la sua bellezza, la sua figura, diciamo, e ci vanno bene. Oltre alle radio di Apparati, che sono le radio più piatti di Apparati, non vanno a lavorare altro. È una passione. passione, se non c'è la passione non se ne fa niente, non se ne fa niente, cappa cappa, riprendi il no. Beh, normale, è normale, tutte le cose vanno fatte con passione, se no altrimenti che passione. Infatti, passione, amore, tutto, tutto, tutto, tutto, se si fa radio si fa per passione, non si deve fare radio così tanto per fare, capito? E così è top. Cappa, riprendi top. Io ho detto, come tutti io stavo organizzando, noi non abbiamo fatto mai organizzare, con cazzo, con la terra, con questo lato, che fa dire, ma non è un'organizzazione, ma è fare un po' di movimento. Dove? Che movimento stai facendo? Il movimento sexy. Sistemiamo col baracchino, vediamo cosa si può fare, se si può aumentare, sono una cascetta di cose, di brutta sotto. Allora manco usata un poco. Vai, tole, tole, vai, tole. Così è. Poca gente. Vediamo in questo. Proprio, ormai sono tutti a dare a te non so se la fare. Lasciamo la radio. Diminuisco la parte. Ah, va, a me non mi interessa. Io sono qua e, come ti ho già detto l'altra volta, sto lavorando a senso unico. Non c'è problema. Ti posso dire che sono abbastanza soddisfatto. La gente sta entrando, almeno qua dove ci sono io, non sta entrando a salutare, a fare due chiacchiere. Quindi sono più che soddisfatto. Non problema. Poi vediamo più avanti, magari. Qualcuno mi ha già contattato, ti rispetto a domani, ma piatto l'antenna a Mauro, domani pomeriggio appena mi libero. Così entra anche Mauro, Giuseppe sta cercando di rispolverare questo baracchino, ma sicuramente non ha la possibilità di montare l'antenna a casa, ma si farà sentire anche dalla macchina. Vediamo un poco, Antonello già sta sempre entrando, tu stai entrando, dai un po' di pazienza ancora. Siamo a settembre, vedrai il prossimo mese, che c'è più freddo, la gente sta più a casa, fa piacere fare due chiacchiere. Io sto rispolverando anche i baracchini in fiume, giusto per farli andare, per vedere un po' com'è la situazione. E niente, vediamo. Chi la dura la vince, dice quello. Vero, Anto, vero, Anto, vero, Anto. Sono arrivato stamattina alla signora, via 1 30 camionetta. La camionetta? Sento la camionetta dei CC, stavano scendendo a terra per Tintino, cioè per Porto Torres, portarlo a San Sebastian. Rubando lì nei cantieri che stanno costruendo, stanno facendo. Ma dove lì alla sera? Ria. Ebbene, stava rubando, è ovvio. È ovvio che ce lo porta. Ci hanno fatto direttamente il processo per direttissimo lì in Caserio. Infatti c'erano due pattuglie che stavano uscendo per andare a Rivi. Porto Torre, vabbè, prendono la sassa, tribunale. Si ha pagato, si ha bisogno di gente in Chivi, non ce n'è problema. Lavorare dentro in Chivi e a voi, già si arrangia una sassa. Vabbè, invece è tolere. Non ne mancheranno la cella lì. Ma c'è anche lì nella caserma dei carabinieri, in quella nuova hanno fatto a trabucato. C'è la. Sono le celle di sicurezza, non c'è problema. Ma gappa. Gappa rogero. Le prendi tutto, le prendi. Quindi i carabinieri sono solo la gente, è convinta che la Genova non è controllata. Faccio una valetta ecotologica. Capisci, c'è un soffettito che fa tutto questo cantiere lì al faro. Il nuovo cantiere lì avevano bloccato, adesso si è sbloccato. Il cantiere di trascorso è intentato una macchina e ha iniziato a caricare ferri, a caricare mole, a caricare c'è tutta la fattura ai carpentieri. E l'hanno fatto partire e poi l'hanno fermato. Hanno fermato la strada e l'hanno imbruttito. E mi ha sequestrato la macchina e ha detto via a San Sebastiano. Non valeva la pena. Io penso che non ne valesse la pena, perché sapere che adesso ti fanno un processo per direttissimo e ti condannano per furto e scasso, perché tra l'altro ha rotto anche il cancello del cantiere, quindi siamo già col furto con scasso, quindi spero che sia censurato, perché se non è censurato qualche anno se lo fa, che cosa? Per 100 euro, 200 euro di attrezzatura, ma vabbè, cagare. Thank you. rustici rubano per fesserie, nel senso che loro poi la rivendono per fesserie, poi per farsi la pena o per farsi la malassuta che sono loro. Capito, però mettono in conto a chi deve lavorare, cioè quando tu vai in un cantiere non trovi i ferri e cioè, ti hanno messo già in conto, ecco, tutto il discorso, ecco perché dico non va bene quando c'è delle cose che non va bene, io sono contrario a queste cose qua, se mi serve una cosa la chiedo, se non mi si dà pazienza, però andare a prenderla non va bene, non sono d'accordo. E si conferma, è così. Capito, no, ma è così. Purtroppo c'è molta gente che va a rubare, lo so, ce n'è bisogno, ne è bisogno, ma ci sono tante cose, uno va a chiedere e si chiude il discorso lì, ma non è che una volta tu devi andare a rubare una persona, per che cosa? Per aver rubato una radio, una paletta, un martello, una mazzetta. Sono stupidaggine, ma poi tutte le conseguenze, se viene trovato, vedi, c'è il caso che ho visto Claudio, vedi, quello non si è rovinato per pochi fritti, per dirti. Che nella vita ci sono gli alti e i bassi. non può mai funzionare tutto bene, dire sono rose e fiori tutto, no. Bisogna sapere anche soffrire e bisogna cercare di andare avanti con quel po' che si riesce. Non è poi andare a mattare una bassona, il gatto va a 1000 euro, va a 500 euro, ma in modo più assoluto. Sera. Se vabbè, se tu riesci tardi, se non saresti venuto con me, non so che ora mi chiama Mauro, vediamo, ti faccio sapere domani, mi mettete un colpo di telefono, ok? Va bene, anche io adesso chiudo. Ciao Tome, dai, ha fatto molto piacere ascoltarti, e anche io chiudo che devo alzare presto uguale anche io. Va bene, Cole, niente, dai, già, ci aggiorniamo tutta domani, dai, non ci sono problemi. D'accordo, ci aggiorniamo domani, dai, non mi aspettare allora. Ci sentiamo domani per telefono. Ciao Paolo, un abbraccio, grazie del consiglio. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao.